Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Benvenuti a Smart City. CIG, CIGS, telluro di cadmio, DSSC sono alcuni dei materiali, delle sigle, delle tecnologie che nel corso degli ultimi 10 anni hanno tentato di scalzare il dominio del silicio nel mondo del fotovoltaico. Oggi la speranza, quella più recente, si chiama perovskite, ma nel frattempo il silicio rimane di gran lunga il dominus incontrastato di questo mondo, complice anche gli enormi investimenti fatti in Cina che hanno permesso di raggiungere economie di scala molto spinte. Insomma, il silicio è ancora oggi il re dell'energia solare e di certo non perderà la corona da un momento all'altro. Questa sera allora iniziamo un breve viaggio in 2 tappe per scoprire qual è oggi lo stato dell'arte del fotovoltaico al silicio e anche per capire quali siano ancora oggi i margini di miglioramento di questa industria. Ci facciamo aiutare in questo percorso da Fabrizio Dughiero, che è professore del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova e anche del Centro di Tecnica ed Economia dell'Energia Levi Cases. Dughiero è un esperto di fotovoltaico, conosce l'industria fotovoltaica cinese molto bene perché si è girato insomma di persona quasi tutti gli impianti. Buonasera Dughiero, benvenuto. Buonasera a lei. Allora, senta, proviamo appunto a raccontare un po' come si fabbricano questi pannelli fotovoltaici al silicio. Si comincia da una materia prima che assomiglia molto alla sabbia, no, su cui siamo abituati a giocare da bambini al mare. Sì, ma quella sabbia non può essere utilizzata così com'è, quindi la prima operazione è quella di prendere quella sabbia, in sostanza silice, e ridurla a silicio. C'è un processo particolare che appunto trasforma la silice in questo particolare silicio che si chiama silicio metallurgico. Ancora non basta, perché il silicio metallurgico non può essere utilizzato perché contiene un sacco di impurezze e quindi bisogna quel silicio metallurgico trasformarlo, farlo diventare, mi lasci dire, una sorta di gas, per poi farlo depositare su delle barrette, diciamo così, di silicio purissimo, e a quel punto lì otteniamo un silicio in tanti sassi, in tanti pezzi di silicio molto puro, va bene, che può essere utilizzato poi per continuare il processo produttivo. Tra l'altro è un processo fin qui molto simile a quello in generale dell'industria elettronica, no? Assolutamente sì, fino a qui non cambia assolutamente nulla. Diciamo che nell'industria elettronica la purezza del silicio che viene utilizzato poi per fare i chip, quindi per fare i wafer, deve essere anche più elevata ancora di quella maggiore. Che può essere utilizzata, certo. Ancora maggiore rispetto a quella che si usa nel fotovoltaico. Ecco, siamo arrivati a questi sassi di silicio puro e a questo punto che cosa succede? Beh, a questo punto dobbiamo creare i wafer, quei quadrotti, diciamo così, che vengono utilizzati per fare le celle che poi vengono assemblati per fare i moduli. Per fare questi quadrotti, questi wafer, bisogna prima prendere di nuovo questi sassi di silicio, metterli dentro ad un forno, quindi farli fondere ad una temperatura superiore ai 1400 gradi, che è la temperatura di fusione del silicio, e poi fare crescere questo silicio, si dice fare solidificare questo silicio in forme preferenziali. Si utilizzano 2 metodi, un metodo che si chiama Czochralski per fare silicio monocristallino, oppure si usa un metodo che si chiama solidificazione direzionale, che serve invece per fare dei lingotti di forma quadrata, diciamo così, che poi vengono tagliati. Viene tagliato sia il lingotto prodotto secondo il metodo Czochralski, sia il lingotto prodotto secondo il metodo DSS. Ecco, viene fatto letteralmente a fette, un po' come un salame, no? Sostanzialmente. Assolutamente sì, prima si squadra, diciamo, si fa lo squaring e poi dallo squaring creare questi bricchi dai quali poi vengono tagliati i wafer. In questo processo di taglio ovviamente si perde anche un molto bel po' materiale, di materiale, certo. Che poi può essere riutilizzato comunque nei processi successivi. Quindi siamo fuori della segatura sostanzialmente, solo che è segatura di silicio, diciamo così. Ecco, esatto. E questi wafer sono molto vicini a insomma, quello che serve per fare un modulo fotovoltaico, no? Sì, perché i wafer sono delle fettine sottili, fino a 180 micron di spessore, quindi sono molto fragili. Sono di solito in una dimensione standard di 156x156 mm e sopra questi wafer si fa un processo chimico-fisico per creare quella che viene chiamata giunzione PN, che è sostanzialmente la cella fotovoltaica. Su questa giunzione PN si mettono i contatti, che è quella griglia che si vede argentata sopra, che si vede, celle, sì. È il contatto superiore, mentre sotto non serve fare una griglia perché non serve far passare la luce. E quindi, ripeto, il processo è per creare questa giunzione PN, l'imposizione dei contatti e la valutazione poi si chiama sorting, per andare a vedere poi di produrre delle celle che abbiano tutte la stessa caratteristica, sì. È un processo che avviene dopo dal wafer fino alla cella. Perfetto, e insomma, bene o male siamo arrivati in fondo, perché poi queste celle vengono messe in serie, sostanzialmente collegate, esatto, elettricamente una all'altra, messe su un pannellone. 70 e qualcosa di queste celle formano tipicamente, sì, uno dei pannelli fotovoltaici che siamo abituati a vedere. Una domanda, sì, prima di fermarci, sì, di tutta questa filiera produttiva, dov'è il grosso del valore aggiunto? Qual è il passaggio più importante? Beh, direi che ormai la produzione di polisilicon, cioè il silicio molto puro, è, diciamo, una prerogativa dei paesi dell'est, quindi lì non c'è molto valore aggiunto adesso. Ma anche nella produzione di lingotti e wafer, e soprattutto nella produzione di celle, ci può essere molto valore aggiunto. Insomma, c'è ancora da fare, e domani cerchiamo appunto di capire che cosa si può fare per migliorare questa filiera e anche che cosa potremmo guadagnarci se riuscissimo a farlo qui in Europa. Per intanto grazie professor Dughiero. Grazie a lei, e ci sentiamo allora domani per il proseguo. È tutto anche per questa serata, buona continuazione qui su Radio 24.